Ecco, buonasera a tutti, signore e signori, vi ringrazio di essere così numerosi qui presso la sala del Centro Trevi che l'Ufficio Cultura ci mette a disposizione occasionalmente, in quanto la biblioteca provinciale da qualche mese a questa parte esce. Ecco, è una biblioteca migrante e quando organizza qualche iniziativa si sposta anche volentieri nella città. Abbiamo queste sedi che ci ospitano, il Centro Trevi per la maggior parte delle occasioni, poi anche il Teatro Cristallo in via Dalmazia e occasionalmente anche il Liceo Classico che è più vicino a noi. Ecco, io sono sempre felice quando ci sono queste occasioni per presentare un libro, soprattutto un libro che riguarda la città di Bolzano, la nostra storia recente, questa volta non è guerra. Non è, ecco, è un argomento bello, socialmente molto più coinvolgente forse per certi versi, riguarda un periodo felice che può essere la gioventù, spensierato che può essere il tempo libero, insomma può essere tante cose, ma sicuramente è quando pattinavamo in via Roma, ecco, un posto, un luogo della città in una zona di recente costruzione per l'epoca dove giovani e meno giovani insomma si trovavano in un contesto diverso. Questo progetto è stato voluto, desiderato, ideato da Sergio Camin, che è qui con noi questa sera. Lo conoscete per le sue numerose attività, ma anche per quello che scrive sul quotidiano Alto Adige, sempre con arguzia e intelligenza. E poi abbiamo anche Vania Zappetti, che avete anche già conosciuto anche attraverso le iniziative della biblioteca, che ha curato la parte più squisitamente storica. È un libro anche animato da tantissime fotografie, un apparato iconografico che è stato raccolto tra i cittadini, ecco, in questo senso anche la biblioteca è stata coinvolta, e è stata una bellissima esperienza perché ci siamo messi lì proprio in via Roma con uno scanner, un computer, un collega della biblioteca ha raccolto le fotografie che arrivavano, passavano delle persone, arrivavano, abbiamo scansionato, scritto la didascalia, eccetera, e così si è creato piano piano anche in questa maniera un tesoretto che custodiamo ancora adesso in maniera molto, ecco, precisa e anche gelosamente, tra virgolette, perché fa parte. La fotografia è un modo di fare storia recente molto bello, molto attraente e che riesce a scatenare dei ricordi che altrimenti rimangono a volte anche un po' sopiti, purtroppo. Io non mi dilungo molto, è un progetto che è stato sostenuto anche dal Dipartimento Casa Scuola Cultura. Vi invitiamo, perché queste sono delle occasioni preziose anche per noi, a visitare la biblioteca. Siamo in via Mendola 5, abbiamo un sito internet dove potete vedere, curiosare, chiedere qualunque cosa vi serva. E ecco, l'unica attività che manteniamo in loco in via Mendola 5 sono quelle di formazione, di information literacy, quindi il mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 18 mostriamo come accedere ai servizi col proprio smartphone, computer, iPad, eccetera eccetera, un collega è a disposizione però anche in altri momenti della settimana qualora qualcuno di voi avesse necessità. E poi il caffè delle lingue che cade ogni secondo martedì del mese. Vi invito a venirci a trovare, a rimanere in contatto con noi. Vi ringrazio e ringrazio i nostri ospiti a cui cedo subito la parola. Grazie. Devo usarlo per via di registrazione? Allora, buonasera, io cercherò di essere il più breve possibile, però una premessa è importante, perché questo non è un libro che nasce per caso, non è una raccolta di fotografie, non è un momento di sprazzi nostalgici di persone che ormai hanno superato da tempo l'età del gioco. Personalmente cerco di giocare ancora, però è un invito che faccio a tutti, però insomma quel gioco l'abbiamo interrotto da parecchio. No, non è questo, questo libro è il frutto di un progetto, lo ha già accennato, devo dire che hai già detto quasi tutto, però cercherò di aggiungere poche cose. Questo progetto si inseriva, è un progetto di qualche anno fa, era il 2010-2011 quando abbiamo cominciato a ragionarci, e si inseriva, e faccio un'operazione di questo tipo però, perché altrimenti non riesco. Si inseriva, dov'è? Andiamo. Si inseriva nel lavoro che l'assessorato provinciale alla cultura stava avviando nei quartieri della città di Bolzano, cercando di intervenire su quella che è la cultura dell'abitare. E il rapporto tra l'abitare e la cultura non è esattamente la stessa cosa ed è piuttosto complicato. Cerco di andare più veloce. Questa è la città di Bolzano, è una città che rispetto all'offerta culturale è ancora fortemente policentrica. Vedete quel rettangolino che poi viene ripreso lassù in alto. Questo è un rilievo fatto nel luglio del 2009, ma non è mica cambiato molto. L'unico momento di semi-decentramento è il Teatro Cristallo, che non consente comunque di avere una città policentrica. Noi viviamo una città, quella di Bolzano, dove chi vive al di là di Ponte Tallera non dice vado in centro, dice vado in città, l'abbiamo sempre detto tutti, e questo è significativo, no? È un posto che comunque rischia di essere d'altri, e essere parte della città invece è l'obiettivo principale che il progetto generale si poneva. Sono andato avanti più veloce che posso. All'interno di questo sforzo ci sono state una serie di interventi di promozione e sollecitazione culturale per cercare nuovi pubblici, ma soprattutto per avvicinare la proposta culturale della città di Bolzano, che è di alto livello e vasta, più pubblico possibile e soprattutto nuove presenze. Per farlo sono state adottate tecniche di marketing culturale che sono state utilizzate nei quartieri per invitare ad uscire, a vedere, ad ascoltare, ma soprattutto a fare, a partecipare. Devo dire che questo progetto ha fatto non solo uscire, soprattutto di testa a noi, ma soprattutto ha fatto fare, perché c'è stata una partecipazione attiva molto vasta e a più livelli. Ecco, erano in piedi questi lavori, un lavoro in via Sassari, l'intervento al Firmian, partendo da via Cagliari, dove abbiamo provato a vendere la cultura facendo il porta a porta, e ha funzionato molto bene, un anno di lavoro. Conclusione, la stagione estiva di Don Bosco, che continua ancora oggi. Questi sono risultati importanti. Il lavoro fatto al Trisacco con l'Isola della Meraviglia, l'intervento a Casanova e gli interventi nei mercati con guerriglia marketing e i trailer di presentazione dei prodotti culturali della città. Detto tutto questo, c'era stato detto, devo dire in particolare da Confesercenti, avete fatto una serie di lavori in varie parti della città, un posto della città, un posto, non un luogo, sono due cose radicalmente diverse, che ha dei problemi seri di aroma. Ecco, io quando ultimamente, il Natale è passato da poco, leggo che ho ottenuto come grande conquista ad avere le luminarie natalizie, devo dire, sorrido ma tristemente. Cioè, purtroppo via Roma è un luogo di intenso passaggio, è una non strada, se non una strada di scorrimento veloce per le automobili, è un posto difficile da riconquistare, però come tutti i posti ha dei pregi. A volte pezzi di città e posti ritornano ad essere luoghi, quindi posti di appartenenza, se ce ne ricordiamo anche la storia, ed è il tentativo che abbiamo cercato di fare. Siamo partiti da via Roma, un pezzo importante della nostra città, e siamo ritornati a quella via Roma che era per tanto tempo il confine tra due Bolzano diverse, ma nello stesso tempo era quella strada in cui ci ritrovavamo tutti, da qualsiasi parte della città si provenisse. Quindi un confine che non divideva, ma univa. Andiamo avanti molto veloci perché altrimenti perdiamo tempo. Ecco, gli obiettivi che avevamo erano il coinvolgimento della popolazione residente come prima cosa, perché non si fanno operazioni di questo tipo passando sulla testa della gente. La ricerca di complicità attive nella popolazione è stato uno sforzo, non è mai premiante al 100%, però senza quello è inutile partire. Diffusione, come si diceva, della proposta culturale complessiva, l'affermazione dell'azione come parte integrante del progetto strategico sui quartieri, che era quello che dicevamo prima, e anche la promozione dei negozi, che hanno certamente più bisogno di operazioni di questo genere che non di luminari. La fiera, era importante la fiera, era importante via Roma, era importante perché era la nostra storia, una storia comune per 50 anni della vita di Bolzano, e dei bolzanesi. Dario Fo, che arriva immediatamente dopo che Maurizio Scaparro decide di proporre l'Amleto all'interno della fiera e coinvolge per portare le varie cose di scene che erano nate solo per lì, perché nel teatro di Grias non ci stavano, più grandi, e come io andavo a scuola abbiamo aiutato a portare le scene in via Roma, e insieme a me c'erano quelli che giocavano a hockey insieme a me. Cioè quel momento di teatro, che alla città è costato un'ira di Dio, perché Scaparro aveva pregi straordinari ma spendeva troppo, però ci ha fatto crescere, ci ha fatto capire che questo tipo di operazioni sono quelle che ci fanno sentire la città come nostra, perché partecipiamo e siamo assieme nella costruzione del progetto. Ma soprattutto la fiera era il ghiaccio, era il palazzo del ghiaccio. Era quel Bolzano in cui giocavano i ragazzi della città e i due oriundi. È chiaro che è un altro modo di vivere anche l'hockey, oltre che la pista di ghiaccio. Era giusto o sbagliato? Non lo so. Evidentemente non siamo qui per dire se era meglio o peggio. Sicuramente era diverso. E sapere che ci sono delle diversità ci aiuta a capire che cosa era meglio allora e che cosa è meglio adesso, perché l'obiettivo poi di fondo è questo: le città vanno avanti, si sviluppano, cambiano, e il nostro compito, il nostro di cittadini intendo, è quello di farne parte, quello è positivo, e lo era allora come può esserlo adesso. Bisognava costruire un progetto. Allora, c'è stata una fase molto lunga di costruzione delle complicità attive, l'abbiamo chiamato allora e continuiamo a chiamarle così, negozianti, circoscrizioni di Gries, San Quirino, perché è confine ancora, no? Quindi anche le circoscrizioni sono più d'una, gli enti culturali della città, le associazioni, l'ente fiera, l'Hockey Club Bolzano, e poi serviva qualcosa che coinvolgesse. Stavamo parlando di un posto dove si andava anche a giocare, e beh, allora la cosa principale da fare era inventarsi un gioco, il gioco più banale che puoi fare, avendo un sacco di sportellini che sono i negozi e tanti cittadini con i loro ricordi, è stata una lotteria, e poi la vedremo molto velocemente. L'idea era quella di concludere con una mostra, poi alla mostra è seguito anche questo libro di cui parliamo stasera. Abbiamo passato un anno costruendo i rapporti con tutti gli enti culturali della città, con le famose complicità attive, con chi avrebbe portato avanti la comunicazione del progetto senza la quale era impossibile lavorare, e la biblioteca, la RAI, il giornale Alto Adige sono stati determinanti. Abbiamo costruito una squadra dove non c'erano capitani, ma ci lavorava alla pari, e di questa squadra alla fine hanno fatto parte, e questa direi la cosa più importante, più di 700 persone che hanno collaborato mandando materiale su Facebook, tutti i lettori che hanno spedito non solo le immagini ma anche piccole memorie, poche parole, ricordi, scampoli di quel periodo. Senza quello non avremmo fatto il libro, senza tutto il resto del lavoro questo libro sarebbe però soltanto un'operazione nostalgica e avrebbe poco significato rispetto a quello che vorremmo diventare noi, i nostri figli, i nostri nipoti, la nostra città. Allora, la prima fase, dicevamo, era quella della lotteria. Ecco, la cosa divertente, poi ci arriviamo, la lotteria, vado avanti più veloce che posso. Produzione di materiale, un'immagine, le etichettine di partecipazione sui singoli negozi, le cartoline distribuite, i manifesti, i totem nei negozi, ma questo qui era una roba simpatica, cioè erano dei bigliettini della lotteria dati nei negozi. La gente comprava qualcosina, e qui l'aiuto ai negozianti, riceveva il biglietto in omaggio, e poi c'erano le estrazioni settimanali, premi culturali, si vincevano ingressi al teatro, al concerto, al cinema. Beh, ne sono andati via 10.000 di questi e 250 premi sono stati usati, nel senso 250 persone sono andate a un museo, a teatro, e qui vediamo i materiali che abbiamo prodotto, tutti i materiali sono stati prodotti ad hoc, anche perché l'iniziativa doveva caratterizzarsi nel modo più forte. E le persone che partecipavano, dal negoziante che ha detto di sì il primo giorno alla signora che prendeva il biglietto, dovevano identificarsi con un progetto che poi si sarebbe concluso in effetti 2 anni dopo. Il lavoro con l'Alto Adige è stato fondamentale, questa pagina c'era ogni settimana sul giornale. E poi la mostra nella scuola professionale artigianato di lingua tedesca di Via Roma, che tra l'altro è uno degli oggetti architettonici più importanti di questa provincia, un luogo ideale per ospitare queste iniziative, e basta chiederlo, lo dico a tutti. Ci siamo trovati molto bene con la direzione, con i ragazzi della scuola, c'è stata partecipazione, collaborazione anche con loro nella costruzione della mostra, una mostra che era fatta di tubi d'argine, perché di tubi d'argine erano fatti i sedili su cui poggiavamo le terga guardando le partite di hockey. Il Palazzo del Ghiaccio diventava Palazzo del Ghiaccio e non Padiglione della Fiera soltanto perché c'erano tantissimi tubi d'argine e dei disperati che li montavano. Adesso si finirebbe in carcere montando delle tribune in quel modo lì. Questa è stata la mostra, con una parte delle foto che sono arrivate, perché la maggioranza delle foto erano in risoluzioni molto basse, funzionavano bene in rete, riprodotte creavano qualche difficoltà. La stessa cosa che è successa per il libro, dove evidentemente non abbiamo potuto mettere tutto il materiale. Dalla mostra poi si è arrivati al libro, e il libro è nato con una collaborazione, lo ringrazio moltissimo anche qui, con Vania Zappetti, che oltre ad essere uno storico è uno storico che non ha bisogno di essere tradotto. Cioè, io sono adesso 65 anni e collaboro con tanti scienziati e vi confesso che mi rompo le palle la maggioranza delle volte. Se devo fare organizzare una mostra o arrivare a una pubblicazione, o traduco io, rompendo i rapporti per sempre con lo scienziato, oppure inizio una lotta durissima di trattativa sui termini, no? Perché spesso lo scienziato scrive per gli scienziati e questo mette a disagio. Vania ha anche questo pregio, si fa ampiamente capire, e abbiamo lavorato, devo dire, bene. Nel libro, oltre alla testimonianza scientifica di Vania Zappetti, c'è una piccola presentazione del progetto, ma c'è anche il contributo dell'Ente Fiera e di Giorgio Gaier dell'Ente Fiera, che è la storia della fiera, è ancora in fiera come vice direttore e è stato molto utile anche per il reperimento dei materiali. Di sicuro ho dimenticato un sacco di gente che andava ringraziata, perché in una cosa così era complicato, però più lunghi di così non si può essere. Passiamo a Vania. Grazie. Dunque, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, sono acceso. Ringrazio prima di tutto Sergio per l'introduzione e per tutta la cornice che era ovviamente necessario fare per raccontare la genesi di questo libro. Un libro che è stato costruito a molteplici mani, perché, come avete visto tutti quanti, è un libro dove molti sono i contributi arrivati come si voleva dalle persone che via Roma l'hanno vissuta per anni e anni, con le foto e con tutto quello che Sergio ha appena finito di raccontare, all'interno di una serie di di tempi, insomma di mesi e anni, alla fine è durato il progetto, che hanno fatto sì che si sia ricordato questo, questo comprensorio di via Roma, perché via Roma è una via ma ha tutta una serie di addentellati intorno, che ci sono stati nel tempo, alcuni sono rimasti, alcuni no. La memoria abbiamo visto che non si è persa. Neanche un po', probabilmente semplicemente le nuove generazioni che via Roma l'hanno vissuta ex post, soprattutto parlo di coloro che erano piccolini negli anni 90, quando una buona parte del cuore pulsante di ciò che era la via Roma storica è stato spostato, trasferito, smantellato, usate voi il termine che più vi piaccia, a queste persone qui, parlando sia in pubblico che privatamente, ho visto spesso accendersi gli occhi per dire: ma se tutto questo, tutta questa cosa accadeva in questa via? E sì, accadeva, e come? E io sono molto felice di essere qui a raccontare questa cosa, sono quindi debitore doppiamente, nei confronti di Sergio, per l'incarico che mi è stato affidato, perché si parlava di questa cosa come, insomma, punto esclamativo di una frase lunga che era il progetto intero, da Sergio prima spiegato. Ovviamente la, come dire, la testa di uno storico, che è quella mia, insomma, quando si tratta di dover lavorare sulla storia, ha subito cercato di capire cosa fosse possibile fare per unire due ingredienti che sono un po' normalmente non in antitesi ma difficili da amalgamare, che sono la scientificità, che in testo di storia è obbligatoria, e senza la noia e il tedio di cui parlava giustamente, insomma, Sergio, io non so se sono capace di scrivere in maniera più o meno scientifica. So che da storico era mia precisa intenzione far sì che il libro avesse delle caratteristiche di storico. Contemporaneamente era un libro che doveva essere, voleva essere un libro con un sacco di contribuzioni da, chiamiamole, dal basso o dal largo, insomma, da dalle persone che sono state coinvolte in questo progetto, all'inizio, come dire, appena appena stimolate, poi arrivate in massa tramite l'Alto Adige e tramite i social network con i propri ricordi. E insomma, bisognava bilanciare un po' una pretesa di scientificità con una necessaria operazione di ricordo, un po' amarcordista, insomma, se si può utilizzare questo termine. Per questo motivo la mia scelta, che devo dire e ringraziare, non è mai stata criticata, anzi è sempre stata sostenuta, di dividere la parte scritta di questo libro in tre parti precise: una più tecnica, cioè la storia della via, la storia vera e propria della via da quando venne così intitolata a quando è stata poi, insomma, trasferita nel suo cuore, come si diceva prima, altrove. La via è rimasta, molta della sua attività delle decadi precedenti si è trasferita altrove. E un secondo capitolo di comparazione, che è una delle tecniche principali utilizzate nella storia per relativizzare un elemento e cercare di fare capire attraverso vari colori, attraverso varie prospettive, meglio quello che si vuole descrivere. È come guardare un albero guardandolo solo davanti o cercare di farci tutto il giro intorno. Si vede in maniera diversa l'albero stesso. Questo è il motivo per cui c'è stato la mia voglia di comparare via Roma con le altre due città che avete visto, che avete letto, comparato in questo libro. E poi ci voleva, però, a mio giudizio, la parte di più forte colore, più forte intensità emotiva in qualche maniera, che è stata voluta come sotto forma di intervista con il personaggio che dal questionario che noi abbiamo fatto, che mi pare che hai dimenticato di citare, forse. Me l'ho lasciato. Me l'hai lasciato, scusate, mea culpa. Che gentilmente mi è stato lasciato. Vi ricorderete che ha partecipato a tutta l'attività, alla mostra e anche a ciò che veniva distribuito nei negozi che hanno partecipato alla all'avvenimento c'era un questionario con piccole semplici frasi, domande, quesiti a crocette, che ci hanno aiutato a elaborare il ricordo di massa di questa linea. Una di queste frasi domandava, una di queste, questi quesiti domandava chi fosse il personaggio simbolo dell'Hockey Club Bolzano, che in qualche maniera, torto a ragione, insomma, è di gran lunga l'elemento di maggior forza simbolica dell'intera storia di via Roma, e beh, ha vinto a mani bassissime Gino Pascolotto. Con Gino Pascolotto abbiamo fatto un'intervista che fosse il più possibile pertinente con quello che era stato scritto, mi sembra, l'ho riletta da poco perché io non amo rileggere quello che scrivo subito, un po' per vari motivi, però ogni tanto l'ho riletta da poco e insomma sì, devo dire che è venuta bene, mi sembra che sia venuta bene. Quello che bisognava mettersi c'era, lui è stato molto molto gentile, disponibilissimo. Io ho conosciuto una persona che prima avevo visto solo con il distacco di un bambino all'epoca, perché insomma quando Gino giocava io ero un piccoletto che con il suo papà andava a vedere le partite dell'hockey, e quindi vedermi questo, sì, senza paura di essere esagerato, questo mito su due gambe che mi si riferiva come se fosse la cosa più semplice del mondo, anzi contentissimo di mettersi a disposizione di questa cosa, ovviamente mi ha fatto molto, molto piacere. Dunque, ringrazio Sergio per l'idea e l'iniziativa di invitare me a scrivere questa cosa. Ringrazio ovviamente l'Alto Adige per aver messo a disposizione, come allegato al proprio quotidiano, questo libro. Siamo molto contenti, sia personalmente come dire sputolato a bordo proprio, che so il sindaco, scusatemi, il direttore Alberto Faustini, del fatto che il libro sia stato in assoluto il record di vendita. Il libro non era in regalo, era in vendita in allegato con il giornale, ed è stato in assoluto il record di vendite per un allegato dell'Alto Adige da quando fanno gli allegati e ne contano le distribuzioni, tant'è che dopo 3 giorni o 4 era andato tutto esaudito e una settimana dopo era già ristampa. Credo che ce ne siano ancora copie, perché la ristampa è stata poi abbondante, qualche copia ce n'è ancora, sì, presso la cooperativa di Cinque. Ringrazio ovviamente la ripartizione cultura e l'assessorato, che sono le fonti necessarie per tutto il lavoro che è stato fatto. Senza la loro disponibilità il progetto sarebbe rimasta una bella idea, e invece insomma siamo qui a parlarne per bene. Ringrazio ovviamente Gino, l'ho già ringraziato, e penso che sia il ringraziamento in forma più romantica che posso fare, perché veramente è stata una cosa che ricorderò tutta la vita, quell'oretta passata con lui a parlare di Gino Pascolotto e di Roma ovviamente. Il ringraziamento però più forte e assoluto va a tutti coloro che, appunto, come dicevamo prima, dal basso o dal largo o dal lato hanno, o dall'alto, insomma, hanno voluto contribuire con i propri ricordi. Chi ha passato anni interi la domenica a patinare, chi andava semplicemente a fare lo stendista quando c'erano le fiere, chi c'è stato 2 volte, chi c'è stato per 20 anni. Tutti hanno voluto contribuire, e c'è stata veramente una gara a dire, l'ho vissuto anch'io, questa dimensione qui. Ora, arrivando semplicemente a sintetizzare al massimo quello che c'è in questo libro, immagino appunto che voi l'abbiate visto, ma al di là delle foto, per scelta non catalogate, per scelta non indicizzate, non ci sono gli anni, vuole essere non un catalogo con un calendario, questo è accaduto il 2 giugno del 53, questa era la pattinata, no, vuole essere un ricordo il più possibile fatto come fosse un abbraccio, una nuvola che è durata insomma quasi 50 anni, una nuvola di passione legata a un posto di fortissima aggregazione. Via Roma in tutta Italia, praticamente, Via Roma nasce nel 1931, Non la via Roma che conosciamo noi, la via Roma quella che è per ordinanza di Mussolini nel 31 a tutti i prefetti d'Italia viene mandata una circolare che vuole che la via più bella, più importante, una via degna del nome della capitale del regno sia intitolata a Roma. Ogni città italiana deve avere una via Roma. Il caso più famoso è di Toledo, a Napoli, che per tutti i napoletani è tutto di Toledo, però c'è tutto di Roma, insomma. Via Roma a Bolzano diventa via Marconi all'inizio, per i primi anni via Marconi, l'odierna via Marconi è via Roma. Poi cosa succede? Si sviluppa sempre di più la zona industriale che noi conosciamo oggi, la zona di attrazione anche di un sacco di immigrazione a Bolzano, si sviluppa la necessità di collegare questa zona al resto della città, al centro abitato, a quello che stava comunque già sviluppandosi nella zona dell'Oltretalvera, cosiddetta, si chiamava così, tutto quello che è al di qua del centro storico bolzanino, Oltre Gerarco da una parte ovviamente, e Oltretalvera, quello che era l'attuale quartiere San Quirino, non c'è là, San Quirino, più che non c'è là. Poi c'era Gries, che era una cosa diversa e unita in maniera diversa, ma Gries era una città indipendente rispetto a Bolzano fino al fascismo, unita dopo la prima guerra mondiale. E via Roma, non so se possiamo recuperare quella cartina che avevi tu prima con la mappa di Bolzano. Via Roma diventa una via non è tanto leggibile perché assume una serie di cose, però proviamo. Quello dove ci sono i centri culturali, sai? Semplicemente per indicare e fare vedere com'è. A occidente di via Roma nascono praticamente tutte le abitazioni pensate da Mussolini. Mi fai su presentazione? Scusate. Dunque, adesso mi alzo, vi faccio vedere. Beh, via Roma dovrebbe riconoscere un po' tutti quanti. È quella via rossa lì, un po' più di qua. Ok, vediamo, non so se con qualche cosa che sto dicendo. Da qui con un mouse, forse, eh? Forse sì. Questa è via Roma, ok? Sì? No? No? Sì? No. Dove siamo? Dunque. Allora, questa è la confluenza, quindi qui abbiamo via Trieste. Via Roma dovrebbe essere questa rossa. Occidente, cioè da questa parte qui di Verona, nascono tutte le case costruite appositamente dal regime per dare alloggio ai nuovi arrivati, cioè per dare alloggio agli immigrati italiani che arrivavano soprattutto da Polesine, ma insomma varie parti d'Italia, attirati dall'offerta di lavoro ingente che la zona industriale aveva proposto loro. Si parla di insomma varie migliaia di persone, decine di migliaia di persone alla fine, che arrivano a Bolzano e vengono alloggiate in rioni che noi conosciamo come Rione Dux piuttosto che Littorio, e che si sviluppano esattamente. Il Rione Dux nasce, vicini rurali, 1100 casi insomma, nascono esattamente in concomitanza con la denominazione via Roma dell'attuale via Roma. L'attuale via Roma viene denominata tale nel 1939, dopo 8 anni di via Marconi. Il nome via Roma viene affidato a via Roma o di Roma. Cosa succede e cosa sono riuscito in qualche maniera a evidenziare? Questa via qui fa da confine, il confine di cui parlava Sergio in precedenza, il confine etimologico, cioè la concomitanza di un margine. Confine vuol dire questo, vuol dire la parte che combacia tra due campi. Di solito il confine è una parola che nasce dai contadini, cioè quello che si ha in comune, non quello che divide. Questo è il confine. Bene, questa via diventa una via di confine tra cose. La parte prettamente asburgica della città, che non vuol dire la parte tedesca, vuol dire la parte che era abitata dagli abitanti che erano a Bolzano nella stragrande maggioranza, con le dovute eccezioni, ma nella stragrande maggioranza, già sotto gli Asburgo, cioè prima della prima guerra mondiale. Al di là di via Roma arriva tutta l'immigrazione italiana, cosiddetta reinicola, cioè soprattutto l'immigrazione di persone, sempre della stragrande maggioranza, quindi non esclusivamente, quindi sempre con le dovute eccezioni, di persone che non avevano conosciuto di Asburgo, venivano dal resto d'Italia, insomma, non erano trentini, non erano tedeschi, tedeschi, erano per lo più persone che venivano con esperienze e educazione e semplicemente, come dire, abitudine alla vita leggermente diversa, perché caratterizzata dal fatto di essere un pochino più ufficialmente italiano, diciamo, rispetto a chi aveva vissuto invece l'italianità sotto l'impero Asburgo. Questo fa sì che via Roma sia ufficialmente definibile come una border road, cosiddetta, cioè una via di confine. Le border roads sono le vie che dividono parti magari molto simili, ma con qualche diversità tra nelle città, soprattutto a diversa presenza etnica o linguistica, eccetera. Le border roads sono un concetto che nasce soprattutto in America, nelle Chinatown o nei quartieri riservati proprio a persone di colore, eccetera, eccetera. Adesso non mi dilungo. Comunque, questa cosa qui mi ha permesso di entrare in contatto con due importanti professoresse specializzate nelle proprie rispettive città, che sono Montreal e Mostar, due città che io ho scelto perché città a loro volta multietniche. Montreal come massimo esempio di pace, perché Montreal, a parte qualche crisi economica o qualche momento di difficoltà da quel punto di vista, non ha mai avuto problemi tra inglesi, anzi anglofoni e francofoni, perché non tra divisa così. C'è un boulevard Saint-Laurent, che è esattamente la via di confine tra queste due realtà. Il boulevard Saint-Laurent è la via dell'arte di Montreal, e l'arte a Montreal vuol dire una delle più floride comunità al mondo. Cito su tutti Leonard Cohen, che è nato lì, è nato proprio sul boulevard, e mille altre cose in tantissimi ambiti. Questo perché al boulevard confluiscono entrambe le culture, altre culture. Al boulevard arrivavano tutti gli immigrati a Montreal, quando la città attirava ancora gente da fuori città. L'altro esempio, quello invece più triste e più drammatico che ho potuto portare, è quello di Mostar, dove le due entità, da una parte quella bosniaca musulmana, dall'altra quella cristiano-croata, si sono, come sappiamo, scontrate fino a entrare tragicamente in guerra, esattamente tra l'altro in coincidenza con lo smantellamento del complesso fieristico e del Palaghiaccio di Roma, esattamente in quegli anni là. Ed è un altro boulevard, si chiama proprio boulevard, scritto all'italiano, boulevard, che ha fatto la trincea addirittura durante la guerra, ma tuttora, se qualcuno di voi è capitato o se vi capita di andare a Mostar, lo consiglio, un bel posto dove andare, un sacco di sensazioni si possono leggere da questa città. Beh, tuttora è un viale a quattro corsie con un'isola, un'aiuola in mezzo, insomma, e si capisce quanto abbia fatto da trincea, una trincea, come dire, sopraelevata, non affossata, ma era esattamente ciò che divideva la parte croata con, insomma, forti drammi che si sono vissuti. Questa possibilità di comparazione mi è stata data appunto grazie alla collaborazione di Sherry Simon, che è professoressa a Montreal, e Emil Makas, che è una professoressa croata che insegna a Baltimora University, e loro, queste persone, hanno accettato di mettersi, come dire, in gioco e aiutarmi nel raccogliere i materiali che poi avete trovato in questo capitolo di comparazione, grazie al fatto che io ho potuto, come dire, giustificare la comparabilità di via Roma. Questo è stato un elemento molto appagante dal punto di vista scientifico. Poi la seconda parte del libro è più prettamente dedicata a Fiera e Palaghiaccio, cioè, insomma, la storia di quello che deve essere, i ricordi di quando Fiore è nata, non è nata in via Roma, come sapete, è nata quello che oggi è il tribunale, per 3 anni è rimasta lì, poi andava troppo bene, non ci stavano più dentro e decisero di allargare per questo il proprio ambito, gli espositori diventavano sempre di più, i visitatori diventavano sempre di più, 200.000 visitatori dopo 3 anni. Palazzo di Giustizia ha detto basta, grazie, e con un anno di frammento del 52, nel corpo generale d'autunno del 52, è nata la fiera, quella tragiziana, insomma, fondamentalmente, e con il suo anelito mitteleuropeo per subito, con la voglia di essere un posto di congiunzione tra tutta quella che era la proposta commerciale, insomma, di vario tipo, che poi si è diversificato di varissimi tipi, con Bolzano centro, baricentro di questa zona mitteleuropea, appunto, tra l'altro rispettando la tradizione fieristica medievale, insomma, di Bolzano, col successo che ha avuto, c'è il più possibile la descrizione di quello che è stato, con la possibilità di andare un po' a vedere un po' di dati, ma soprattutto quella di confrontarsi con, come dicevo prima, quella piccola e divertente per tanti, soprattutto da studenti, studentelli, possibilità di andare a guadagnare 2 lire potendo fare lo stendista vendendo Giorgino lo stupino, insomma, piuttosto che l'aspirapolvere di particolare capacità. Era una fiera che si caratterizzava per essere tutto l'ambito della fiera, si caratterizzava per essere molto all'avanguardia, contemporaneo, quando non aveva visto nella sua produzione. E poi il palaghiaccio. Il palaghiaccio che vuol dire per la sua stragrande maggioranza ok Club Bolzano. Cioè, il più possibile la storia di quello che è stato il Club Bolzano, le sue evoluzioni, i suoi successi, tutto quello che è stato. Che è tutto, perché nel frattempo abbiamo dato una fortuna incredibile, no? Sì. Con Club Bolzano, perché è uscito il libro, Bolzano ha vinto un titolo incredibile dopo cose impensabili. Bene, insomma, è un piacere, speriamo che continui, insomma, però Palaghiaccio, oltre a l'hockey, voleva dire per tutti noi praticamente, insomma, il patinaggio. Il patinaggio, andare, chi andava semplicemente a passare del tempo, chi aveva delle mire più, come dire, romantiche a volte, perché insomma c'era sempre una bella figliola o un bel figliolo da incontrare quando era possibile inciampare, a volte c'erano delle tecniche di inciampaggio apposta per avere, insomma, no? Poi tutto quello che è stata la possibilità di offerta culturale all'interno del patinaggio. Perché oltre al momento di divertimento c'è stato il teatro, ci sono stati i concerti, c'è stata tutta la dimensione, tutta l'evoluzione di un polo che era diventato un polo di beneficio di tutta la comunità che girava intorno a Bolzano e non solo degli abitanti di via Roma, perché a via Roma arrivavano da tutte le parti della città. Arrivavano da Reggio e arrivavano da Via d'Europa, ancora non costruito Via d'Europa, insomma, o da Don Bosco. E era una zona di estrema confluenza, che probabilmente ha il suo unico paragone possibile nel Lido di Bolzano, in qualche maniera, forse negli anni migliori del Lido. In ogni caso, come comparabilità, come successo di confluenze, al di fuori, va bene, del centro, il centro di Bolzano rimane quel piccolo golem, che il Lido rimane una cosa paranormale. Ed è un piccolo miracolo che è successo in questa città. Ancora, intorno a Palaghiaccio e Fiera, che sicuramente sono le cose importanti, la struttura portante di via Roma, abbiamo voluto dedicare un paragrafetto per non fa torto a nessuno, avremmo dovuto ricordare tutti gli esercizi storici di via Roma a volerlo fare bene, ma il libro sarebbe diventato così, probabilmente, perché sapete meglio di me negli anni quante cose si sono evolute, quante attività ci sono state. Ne ho scelti personalmente 2 a rappresentare tutti quanti gli altri, il bar cosiddetto Moretti, la piazza Moretti, insomma, oppure Piazza Moretti al Bar Moretti, visto che mi capito, insomma, sì. E che per anni e anni, insomma, è stato un centro di ritrovo. Io mi ricordo la sosta pre-partita al Bruzzi, ma anche insomma pre-partita di calcio o dopo, e tutta quella piccola storia che c'è stata intorno a quel bar. E ho voluto raccontare anche la piccola storia delle calzature Ghilotti. Allora, uno degli esercizi più longevi di quella via, recentemente ha chiuso la propria attività, non nacque via Roma, nacque in piazza Matteotti, ma insomma, della via Roma ha fatto parte per praticamente tutta la sua storia, più o meno. Quelli li ho voluti prendere a rappresentanza di tutti quanti, penso che non ci sia offeso nessuno, anzi mi è sembrato che fossero tutti contenti di questa scelta, perché dall'uno e dall'altro più o meno sono passati tutti quanti e li hanno trovati rappresentanti della propria identità di via Roma. Niente, poi appunto rimangono l'intervista a Gino Pascolotto con l'auspicato ritiro della maglia, che è avvenuto anche quello. Tutto dopo. Deve avvenire. Sì, beh, promesso. L'hanno promesso ufficialmente, quindi finalmente ritireranno la maglia di Gino, di Marco Paolo e di Roberto Bravo. Sì. E come fanno in America, dopo che dei giocatori per anni hanno servito la maglia, diventando alfieri e rappresentanti assoluti, insomma, del team, la maglia, il numero della maglia di queste persone viene ritirato, messo gli archivi, nessuno lo può vestire in onore di chi tanto ha dato a questa società. Bolzano non l'aveva fatto, sicuramente non l'hanno fatto perché è stato, come dire, auspicato da questo libro, ma sicuramente l'hanno fatto male, evidentemente auspicato. E dopo l'intervista a Gino ci sono i risultati del questionario che abbiamo fatto girare fra le persone, e tra l'altro con un numero di risposte tale da poterlo considerare un questionario dei risultati scientifici. Sotto le 500 risposte non si può catalogare come scientifico un questionario. Le abbiamo abbondantemente superate ed è risultato, a parte appunto il trionfo di Gino Pascolotto come personaggio simbolo, è risultato del luogo di via Roma come un luogo di divertimento, percepito come un luogo di divertimento e di spasso, dove l'offerta culturale veniva percepita come mai ingombrante e come sempre un'opportunità di conoscere qualcosa di nuovo. E non c'è tanta percezione di polo sportivo, piuttosto è un polo dove si è passato del bel tempo a 360 gradi, anche sportivo perché no, ma molto al di là di questo, e devo dire che insomma è un risultato importante per chiunque abbia voluto credere nel buon ricordo da parte della gente del comprensorio di via Roma, che si riesce a capire anche dalla vostra partecipazione questa sera a questa presentazione a un po' di distanza di questo lavoro. Quindi vi ringrazio, vi invito, se avete domande e curiosità siamo qui molto volentieri, e niente, applaudo io voi per essere qui. Libri, la cooperativa 19, ancora ha delle cose. Il libro, allora, è la prima volta che viene la presentazione di un libro un po' particolare. Allora, se si trova, io vorrei chiederlo. Non mi lascia rispondere, adesso le rispondo. Allora, il libro nasce per essere venduto insieme al quotidiano Alto Adige. È stato venduto assieme al quotidiano Alto Adige nel momento in cui è uscito, un anno fa circa. Un anno. un anno fa circa. Era in tutte le edicole, abbiamo dovuto fare una ristampa di questo libro perché è finito in pochi giorni. Sono a disposizione, per quanto ne so, ancora delle copie. Bisogna rivolgersi alla cooperativa 19, che si è occupata della gestione generale della cosa e che ha le copie a disposizione. Quindi l'Alto Adige non ha più copie, la cooperativa 19 sì. Per avere, dovrebbe esserci il numero di telefono sull'elenco. In ogni caso, per trovare un riferimento con la cooperativa 19 basta chiedere alla, non tanto alla signorina quanto telefonare in biblioteca, e vi sanno dire a chi rivolgersi da domani mattina alle 10. La cooperativa 19 in via Bari, ma non ci sono tutti i momenti. In casa della Pesa, eh? In casa della Pesa potrebbe avere un ufficio. No, non sempre. Grazie a tutti, se non ci sono domande, grazie mille.